America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. What a dramatic statement the first Trump budget is. Let's take a look at some of the winners and the losers. The big winners, the Department of Defense, the Pentagon gets a 10% increase, the Department of Homeland Security. E che avete sentito dal newscaster, ieri Donald Trump ha presentato il bilancio per l'anno fiscale 2017-2018. Devo dire, ci sono dei tagli consistenti all'ambiente, al Dipartimento di Stato e all'agricoltura. Sono dei tagli che preoccupano molti, ci sono invece molti più fondi alla difesa, sono dei tagli consistenti. Per esempio l'Agenzia per la Protezione Ambientale avrà un taglio del 31% rispetto ai bilanci precedenti, il Dipartimento di Stato e l'Agenzia per lo Sviluppo hanno un meno 29%. Beh, insomma, la diplomazia americana è fondamentale, diminuirne l'impatto preoccupa in parecchi. Sorprende invece l'attacco all'agricoltura. Donald Trump ha avuto un grosso appoggio dall'America rurale, dall'America dei farmers, dall'America che ancora appoggia appunto sul farm. Meno 21%. Vincono il Dipartimento per la Difesa più 10%, per la sicurezza interna più 7%, veterani più 6%. Tanto per darvi un'idea delle cifre, con quel 10% il Pentagono avrà 52,3 miliardi di dollari in più rispetto all'anno scorso. Ecco, c'è però un problema. Dobbiamo capire fino a che punto Trump, che propone questo bilancio molto aggressivo, in linea con le sue promesse, attenzione, non rischierà di alienarsi una buona parte della sua base elettorale. Di certo si è già alienato una buona parte del Congresso repubblicano, perché molti deputati dipendono da quelle constituency, da quelle basi elettorali che andranno a soffrire da questi tagli. Dunque una sfida, quella di Trump, non necessariamente una sfida facile. We expect action to be taken soon to appeal the ruling in the Fourth Circuit and to seek clarification of the order prior to appeal in the Ninth Circuit. The danger is real and the law is clear. Ecco, sul problema che ha avuto Trump ieri, cioè la bocciatura del suo secondo ordine esecutivo per impedire l'immigrazione da 6 paesi islamici, beh, c'è stata la reazione di Spicer, il quale dice, beh, agiremo da subito contro il nuovo blocco del decreto immigrazione. La legge è chiara, il pericolo per gli Stati Uniti è reale, queste sono motivazioni politiche. Ecco, in realtà che è successo? Che oltre al giudice Derrick Watts delle Hawaii, ieri si è aggiunto anche un giudice del Maryland, Theodore Chuang, che si è unito alla causa e ha dato ragione alle conclusioni di Watts, e cioè che di fondo l'ordine esecutivo del presidente è anticostituzionale. Ecco, questi sono contorni di fondo di notizie, però la cosa che interessa di più, soprattutto noi credo, è l'appuntamento chiave, centrale, fondamentale anche per l'Europa, che Donald Trump avrà oggi alla Casa Bianca, fra poche ore. Sentiamo. German Chancellor Angela Merkel has her first meeting with President Trump at the White House. Tops on the agenda for the two leaders, the NATO response to a resurgent Russia. Ecco, Angela Merkel. Angela Merkel sarà per la prima volta nell'ufficio ovale di Donald Trump. Sappiamo che i due a distanza non si sono piaciuti. C'è però una cosa che mi interessa molto, perché nel momento in cui Angela Merkel mette piede nella Casa Bianca dovrà anche mettersi una mano sulla coscienza. Perché? Ma perché l'America sta già compiendo, adesso con Trump, il secondo giro di boa in termini di stimoli alla crescita economica. E l'Europa, invece, per le resistenze della Germania, resta ferma al palo. Ecco, io credo che Trump, se vuole davvero mostrare un po' di grinta, dovrebbe concentrarsi su questo punto, non tanto sulla Russia o sulla NATO, certo sono temi importanti, ma dovrebbe ribattere nei conti di oggi quanto sia urgente che Berlino tolga finalmente il tappo all'Europa, incoraggiando quelle politiche fiscali espansive che ha sempre negato, che l'America ha seguito e che hanno dato dei risultati straordinari. The first jobs report of a full month of the Trump presidency showed the economy added 235,000 jobs in February. The unemployment rate dropped down to 4.7%. Ecco, ogni newscast che sentiamo ci danno resoconti positivi sull'andamento dell'economia americana. Del resto, in un quadro macro, i risultati parlano chiaro. Politiche monetarie e fiscali espansive hanno dato in pochi anni all'America 15 milioni di nuovi occupati. L'economia sta entrando nel nono anno consecutivo di espansione, quasi un record. La borsa è a livelli record. Ecco, tutto ciò è successo senza che ci sia stata inflazione, che era la paura atavica della Germania, con un rapporto disavanzo PIL che ha raggiunto il 3,2% per il 2016 e pensate, per il 2017 c'è una proiezione al 2,6%. Per questo Trump dovrebbe premere sulla questione economica. Le dichiarazioni ufficiali della Casa Bianca però anticipano che i temi centrali saranno soprattutto la Russia, gli aumenti delle spese militari nazionali dei paesi paesi membri della NATO a quel livello del 2% che era stato indicato al vertice in Galles del 2014. Ecco, devo dire, queste priorità, soprattutto la priorità russa, sono comprensibili per entrambi i leader, perché prendiamo Trump, insomma, nel momento in cui si trova sotto un fuoco incrociato per dubbi rapporti dei suoi consiglieri con la Russia, per il fatto che la Russia si è scoperta poi hackerato centinaia di milioni di conti di Yahoo, insomma, per Trump è imperativo dimostrare all'America e al mondo di trovarsi in assoluta armonia con la Merkel nell'impostare i rapporti con Mosca. Ecco, lo stesso però vale per Berlino, attenzione, perché conoscendo Putin, la Merkel sa quanto sia importante contenerlo, ed ecco che dal suo punto di vista la missione a Washington deve focalizzarsi solo su un punto: chiarire che l'America di Trump resta schierata al fianco della Germania nell'imporre sanzioni, nel condannare le violazioni territoriali di Mosca in Ucraina. Ecco, non ci può essere per la Merkel una spaccatura dell'asse transatlantico a vantaggio della Russia. Dunque, quel rapporto che sembrava preferenziale fra Trump e Putin per la Merkel era un anatema sia ideologico che politico, soprattutto in un anno elettorale in cui si potrebbe mettere alla prova la sua capacità di tenuta nei confronti dell'elettorato tedesco. Ecco, detto tutto questo, la questione economica non può essere secondaria. Ci sono due approcci però di Trump, e questo è un problema, e sono contraddittori, perché il primo è legato al fatto che, come sappiamo, il presidente americano preferisce un prevalere degli stati nazionali su un disegno di Unione Europea, per quanto questo possa essere ispirato, e dunque, se la Germania rifiuta di procedere con aggressive politiche espansive lasciando l'Europa ferma, beh, tanto meglio, dice Trump. Vorrà dire che le condizioni generali peggioreranno, che il termometro dei sentimenti popolari anti-euro salirà con nuovi elementi di rottura politica e sistemica. Ecco, questo sicuramente è un punto, però secondo me per Trump è più importante il secondo approccio, perché come l'America di Obama ha cercato disperatamente quel punto percentuale in più di crescita in arrivo dell'Europa, e beh, l'America di Trump non ha meno bisogno dell'America di Obama di una crescita brillante in Europa. E qui torniamo alla Merkel. Pensate, in due mesi l'America ha fatto 500.000 nuovi posti di lavoro, gennaio e febbraio. Davanti a questi risultati, se davvero si metterà la mano sulla coscienza, la Merkel e i suoi consiglieri non potranno che prendere atto di aver sbagliato, almeno intellettualmente, riconoscendo che al di là degli attuali vincoli elettorali, beh, non sarà mai troppo tardi per poter aprire sul fronte dell'espansione fiscale. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione ma apre come sempre una nuova frontiera inesplorata. Potete continuare a trovarli su americanoi4.com. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, dedichiamola all'incontro fra Donald Trump e Angela Merkel, Gary Barlow ed Elton John, Face to Face. York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going.